Paragrafo 4. La leggenda del mostro di Loch Ness, detto Nessie. I Pitti erano una popolazione che abitava la Scozia prima ancora della conquista dei Romani. Nelle loro pitture rupestri, oltre ad animali locali facilmente riconoscibili, compare l'immagine di un mostro dal muso allungato con le pinne e uno spruzzo d'acqua sulla sommità del capo. Forse da qui si è originata la leggenda del mostro di Loch Ness. Nel 1934, poi, fu inscenato uno dei più riusciti scherzi della storia. Un paio di amici montarono una testa di animale su un sottomarino telecomandato per prendere in giro un conoscente, il dottor Kenneth R. Wilson, che abboccò e fotografò il mostro, inviando anche l'immagine al giornale London Daily Mail, che la pubblicò. La notizia fece enorme scalpore, alimentando l'immaginazione della gente. Da allora, decine di persone hanno affermato di aver visto mostri emergere dalle scure acque del lago. Ci sono varie teorie che spiegano questi avvistamenti. Forse sono state suggestioni create da giochi di luce e movimenti dell'acqua. Più probabilmente si è trattato di un animale locale, una grossa anguilla, un pesce siluro, oppure una lontra o una foca. Ecco invece le motivazioni contro la presenza del mostro. 1. Non ci sono prove convincenti dell'esistenza dell'animale. Se si trattasse di un grande rettile, dovrebbe riaffiorare sulla superficie per respirare e sarebbe stato avvistato molto più frequentemente di quanto non sia in realtà accaduto. 2. Se Nessie esistesse, avremmo trovato gli scheletri fossili dei suoi antenati, plesiosauro o creature simili, mai rinvenuti. Il Loch, cioè lago, Ness, non è abbastanza grande per sostenere un animale di quelle dimensioni, anzi, un gruppo di animali. Si dovrebbe trattare perlomeno di una famiglia, dato che gli avvistamenti durano da centinaia di anni. 4. Le acque del lago sono troppo fredde per la vita di un rettile. 5. Fino a un'epoca abbastanza recente, 18.000 anni fa circa, il Loch Ness era coperto dai ghiacci. L'animale non può essersi evoluto qui. Per arrivare dal mare, invece, avrebbe dovuto affrontare un dislivello in salita, controcorrente, e muovendosi verso acque più fredde. Anche questa possibilità è perciò esclusa. Insomma, è scientificamente provato che il mostro non esiste.